attenzione al canale 10, c'è qualcuno. Attenzione 10, prego. Siento mi hermano della Scusciala Sardini, adelante. Attento mi hermano, se scucci l'isola della Sardini Italia. Chiella. Dopo. Attenzione, canale 10, ascoltate l'isola sarda che chiama, cambio. Attention my friend. Italy from Sardinia. Hola, attento mi hermano della Scusciala Sardini, adelante per un comprendito, per favor. Ah, wow. Ciao Giulio, sai da cosa ti ho riconosciuto? Da quel sibilo che fa quella ventola, è un sibilo particolarmente acuto, lo sai? Ma la ventola l'avrei conosciuto. Sì, fa una specie di molto acuto come suono, dai, diciamo anche a Gianni. Sì, ho capito, la ventola è rumorosa, switching è una porcheria, sta diventando del switching, vanno bene come perché resistono, però a riguardo di silenziosità sono una porcheria. La ventola, porca miseria. Poi sai Giulio, ci sono alimentatori switching da pochi ampere che vanno bene per baracchini omologati, anche qualcosa di più, fino a 30-40 watt se li reggono, tipo 7 ampere continui, 9 di picco, che sono senza ventola, cioè sono talmente... hanno raffreddamento passivo, come lo vuoi chiamare, dai, non hanno ventoline, però quelli sai da 30 ampere, da 50, hanno tutti la ventola, perché si presuppone che lì se uno si prende un alimentatore più grosso vuole montarci sopra parecchia roba, parecchi watt. Sì, beh certo, diciamo che il ragionamento che si fa è proprio quello, certo, sì, però non c'è paragone, con la trasformatore molto migliore, almeno, ripeto, questi vanno bene perché resistono, sono stabilizzati al 100%, proprio in maniera perfetta, però questo ronzio, questo rumore della ventola è anche fastidioso, uno non è che si può mettere l'alimentatore in una stanza e la stazione nell'altra per evitare il rumore. Perché dà veramente fastidio, purtroppo è così, infatti io la notte quando metto in ascolto uso un altro trasformatore, quello all'alimentatore quindi tradizionale, però a pochi ampere e dunque non posso utilizzarlo perché a malapena mi va bene solo per ascoltare ma non per trasmettere. E io avevo quello che avevo comprato nel 2010, era un GBC da 5 ampere continui, 7 di picco, no? E mi è costato la stessa cifra, ovviamente alimentatore con il trasformatore, no, classico, mi è costato la stessa cifra di questo Proxel che ha 30 ampere teorici. L'unica cosa che la ventola, sì, mi per esempio senti la rumorosità di questo, non so se senti. Sente? Si sente, sì. Praticamente è come il rumore che lo sento io qua. Io lo sento dal vivo, in diretta, tu me lo fai sentire via etere ed è uguale, non c'è differenza. Da me si sente il rumore della ventola? No, io non, il tuo non lo sento. Forse tu ce l'hai dentro un mobile, sarà per quello. No, adesso vedo la cazzata, scusate. No, sto usando il gas, per quello non si sente. Ah, yeah, allora cosa vuoi? Ma lo so che... Oh, Marco, digliele quattro tu a questo giovanotto. Dai. Oh, sembra fatto apposta, ho fatto sentire la normale ventola, come ho tolto il mic e iniziato a ronzare. L'ho provocato, sentite il casino che fa. La ventolina l'ho pulita, l'ho lubrificata, niente da fare, è da cambiare, poco da fare c'è, da cambiare la ventolina. Io l'ho fatto l'altro giorno, già ha migliorato la mia. Ho messo anche l'olio di vasellina per girare meglio. Adesso gira veloce, fa meno rumore, dai. Ho sfruttato un po' d'aria, ho messo un po' di olio di vasellina, appena mi spray per contatto e sembra pulito. Ehi, adesso io la vorrei trovare uguale la ventola, uguale, stessa sigla. Anche da AliExpress le trovi queste cosettine qua. Perché così è un pianto, io non... Così è disturbante quando inizia a ronzare, sicuramente c'è, però lei lì che fuori asse, si è slargato il mozzo, come lo vuoi chiamare, vabbè già capito, e ogni tanto sbarella e comincia a ronzare di brutto. La cosa migliore sarebbe avere un alimentatore classico col trasformatore e che abbia anche abbastanza ampere, solo che costano, parlo sempre del nuovo, roba usata non ne prendo più, costano troppo da nuovi, 200 euro come niente, tipo quelli ZG, ti parlo di 30-40 ampere. Costano tanto, io mi ricordo che ne ho preso uno da 10 ampere, 90.000 lire da Fusaro anni fa, però è durato tanto, poi l'ho dato a Franco California e ce n'ha ancora, lo sta ancora usando. Che poi mi già, io sai le condizioni che uso praticamente al 99% delle volte, sempre 4 watt teorici, quindi è che l'alimentatore GBC credo che sia partito con condensatore, perché ho visto della schiumetta, una bavetta tipo, sai, l'acido, e sarebbe da cambiare quello, e magari se è a posto il trasformatore cambiare i componenti è una fesseria, solo che con questo caldo a malapena faccio lo sforzo di respirare. Al mare, come vedete, non sto andando, sono andato una volta, mi sono anche bruciato il viso. Sai cos'è? Stamattina ieri avevo da fare di mattina, oggi avevo da fare di mattina, domani devo fare un bel di commissioni sempre di mattina. Se esco la mattina mi sconcio e poi la sera non ho proprio la voglia e anche la, non dico la forza, la voglia di andare al mare, dai. Kappa, lo so. Anche per me è lo stesso. Io sono un po' limitato dalla storia che sto facendo la fisioterapia e poi i giorni che ho liberi, perché vedo un giorno sì un giorno no, i giorni che ho liberi devo farmi le commissioni tipo spesa eccetera eccetera. Ehi, sì, comunque stavo docchiando a questo proposito, almeno per in previsione di mettere a posto quello della GBC, no? Tu pensa a 70 euro che io ricordi, se non qualcosina in più, un 5 ampere volgare. Se avessi preso il 7 ampere, 7-8 ampere, costava 100, credo almeno 100 euro. Io con 120-130 prendo quello da 50 ampere tipo questo. Poi non me ne farò niente naturalmente, perché quelle vanno bene per 6 lineari da 300-400 watt. Però vabbè, comunque il rapporto costo, cioè il rapporto costo poi quello che ti dà è notevole, lo switching, secondo me il grosso che costa è il coso, come si chiama, il trasformatore. Eia. Sì, io ce n'ho uno di quelli che stai dicendo tu, della GBC, da 2 ampere, e io lo uso per dire se devo fare un microfono, una cosa, per notare perché c'è una camera da letto, devo stare a spostare il coso, attacco il baracchino lì con un'antenna al volante e lo provo, capito? E va bene, non se ne scende. Sì, adesso rilanciamo Giulio, poi sentiamo il padre suo anche. Allora, molti lamentavano che con questi switching forse succedevano quelli di 10 anni fa, 15, e dice che introducevano rumorosità di tipo indicezione, no? Su certi apparati, tipo HF o anche baracchini. Io ti dirò, anche muovendo quella rotella del per spostare l'oscillatore interno, no? Non solo con i baracchini, no? Anche con roba che non ho più, provavo a spostarlo per vedere se comparivano disturbi e non ne comparivano mai. Quindi lo posso considerare al pari, ormai saranno più filtrati di quelli a trasformatore. Giulio, ne hai mai avuto i problemi di rumorosità? C'è proprio differenze rilevabili tra un alimentatore classico e switching, tipo con apparecchi seri, diciamo? No, io solo ho notato una cosa, misurando con tester, però, in questo qui, in questo che sto usando adesso, che è da 30 ampere, switching, è stabilizzato al 100%, non c'è un solo o nemmeno un mezzo volt di tensione alternata, è proprio continua da 1000 per 1000. E un altro che è da 9 ampere di picco e continui 7 ampere, che ripeto, quello ho misurato col test e mi dà 2 volt di corrente alternata. Il che significa, se c'è corrente alternata, ci potrebbe essere del ruzzio anche dalla radio, chiaramente, quando uno trasmette. Solo che io non lo posso utilizzare perché, essendo solamente di 7 ampere continui, non è sufficiente per poter alimentare, ad esempio, la radio. Il baracchino sì, ma la radio no. Ecco come. Però, a parte questo discorso, la notte io ascolto, no? Allora, siccome il ruzzio dell'alimentatore switching dà fastidio durante la notte, addirittura si sente da una stanza bassa, tanto per dartene un'idea, no? Allora cosa faccio? Utilizzo quello da 7 ampere continui, ma solo per ascoltare, per trasmettere non posso. Cioè, se volessi trasmettere con K non potrei farlo, a meno che non attacco il baracchino. Se attacco il baracchino il discorso è diverso. Però siccome io intanto non muto la notte, per cui metto quello in ascolto e basta, perché ce l'ho vicino, allungo la mano e ci lavoro come voglio. Ecco come faccio la notte o Marco, proprio per evitare questo rumoraccio che magari durante la notte può dar fastidio. Magari io posso essere il video, ma ci può essere un mio familiare qui ancora che non riesce a prendere sonno perché c'è questo rumore della ventola che si sente da una stanza all'altra addirittura. Capito? Vero, vero. Allora, se l'amperometro è giusto, 3 ampere circa, cioè sto baracchino in M 4 watt 3 ampere, quindi basta un misero alimentatore. Dicevo, finché non metto a posto quell'altro, un po' da tutti i venditori online c'è questo Proxel 7 ampere continui, 9 di picco ed è switching, è bianco ed è senza ventola. Quindi silenziosità assoluta, non fa rumore, 7 ampere continui. E per un baracchino da 4 watt, ma anche da 10 per dire, ma anche da 20, ma anche da 30, ce n'è d'avanzo per dire. 40 euro solo, più la spedizione, vabbè, comprerei spinotti, comprerei PL, no? Per uso futuro. 40 euro è buono, 40 euro 7 ampere, se no l'alternativa è quella, da GBC 5 ampere continui, 70 e più euro, a questo punto. Ma io ho fatto un errore, perché lì al mercato delle Pucci, al Pidocchio, come dice poi il corno Graziano, il negozio del Pidocchio, avevo trovato l'alimentatore della linea K. Però non mi sono fidato, lo volevo appena 20 euro, ti puoi immaginare, PS30, ed era proprio quello calato proprio per il chemo, no? Poi io ho detto, ma possiamo provare, vedere se funziona. Sì, sì, funziona. Poi io non te lo posso provare. Vabbè, ma posso venire io a provarlo? Vengo con lo strumento? No, mi sono... Se non vuoi prendere il governo, quello te lo compro, infatti, te lo compro, se non funziona che cosa me ne faccio? Probabilmente funzionava anche. Ed era il PS30, dunque andava benissimo per la linea Kenwood, bruttissimo, ma veramente bruttissimo, perché non c'era niente, non c'era strumentazione, non c'era niente. Però era dalla linea Kenwood e probabilmente ho fatto un errore a comprarlo, però non ho voluto rischiare, ecco com'è. Vai Gianni. Quello lì era un truffaldino, per carità, lascia perdere. Io non lo posso vedere chi sono. Pensa solo, è avido, una persona strana, tratta male le persone. È proprio, io non c'entro nemmeno con il negozio, perché io sono andato l'altro giorno, quello che c'è dietro la piazzetta, per vedere quell'antenna che mi ha segnalato Roberto Quadrato, ma era un antennino che è uguale a quello che c'ho io, cosa me lo compro a fare per la macchina questo, è piccolo. Sarà pochi centimetri e poi non so manco se è di 27 perché ha un giro solo di molla tipo quello dei carabinieri, ce l'hai presente? Sì, sarà per i 43 mega, sarà. Ma compratela direttamente, ci sono belle antenne, l'altro giorno ne stavo guardando, ho già bellissime antenne, ma veramente per la palla mobile. Quella più costosa era intorno ai 55-60 euro, però si vedeva che era una gran bella antenna, ma bella veramente, per cui vorrei comprare cose di seconda mano per la radio, già compratelo direttamente così, no, date un traverso 20 euro, non diventi né più povero né più ricco, ma almeno quando compri roba nuova, sai che è nuova e non hai da perderci. Io l'ho preso così. Vai Marco. Adesso la ventola ha ripreso a funzionare normalmente, no? Solo che siccome è sotto il baracchino, praticamente in quel tunnel sotto questo mini tavolino, poggia telefono, come lo vuoi chiamare, cioè sentire questo soffio continuo, questa ventola, mi esaurisce. Non mi distrae dalla ricezione delle voci, capito, in radio. Ecco perché vorrei quello switching lì, o comunque un alimentatore senza ventola. È una seccatura mia, è una seccatura. Come ha detto Giulio, lo sentivo addirittura dall'altra stanza, figurati, la notte. Dai, riprendete che vado a prendermi un po' di amaro, che ho mangiato roba pesante, tutto con un calzone con prosciutto e gorgonzola, ogni bomba, mamma mia, si sta venendo il vomito anche, vai Gianni. Oh Giulio, non so se sei mai entrato a vedere questa ditta GGD che costruiscono antenne in Italia, è come poi c'è la Sigma, però le fanno loro, capito? No, non l'ho mai visto quel sito mio, già. Adesso non mi ricordo quel sito che io stavo guardando un paio di giorni fa, ma ho visto le antenne da macchina, ma sono belle, e sicuramente molto funzionali sono sicuramente, però non mi ricordo il sito, ma non è che già ce ne sono tante di questi negozi, per cui non è problema trovare un sito dove ti possa garantire l'acquisto di una bella antenna, già, non è problema. E se non lo sbagli, perché ti orienti sempre sulla P, sulla Sigma, la PSC800 o la 1000, e tu sei a posto, tu vedrai, la 1000 è troppo lunga, ma vende però. Tanto lo sai, la resa del baracchino è sempre quello il discorso, è conforme, è subordinata alla lunghezza fisica dell'antenna, per cui se compri quella si addama, non hai nessun problema. Te lo so, ti puoi mettere un antennino corto, ma un antennino corto lascia il tempo che trova, mio già. Vai. Attento 10, presto? Avanti. Come sta andando questa radio? E anche il controllo di segnale, per favore, grazie. Sento spazio, si roba, entrando così, mi hai fatto assurdità. No, no. Mi sento abbastanza bene, però va a segnale. C'è qualche durata, avanti. Ehi, ci sono io, ma la radio non è qualche là. Ciao, va bene, però non è la tua radio, poco parola. Ripeti. No, è un controllo del segnale, vedete che se la radio è bassa proviamo a sollevarlo un pochettino, dai, sta facendo delle prove qua. 9.10, il segnale è 9.10 per allora. La devi alzare perché è una radio normale. Allora proviamo a sollevare un pochettino il mixing, guarda un pochettino, ho sollevato un po', sono un po' lontano, sono presente dal microfono. Non ho altro tipo di microfono, non ho altro tipo di radio. Attenzione al carabinieri, vediamo un po'. No, la radio tra... Cupa Robè, abbastanza cupa. Non si sente niente. Cosa vuol dire cupa? Un problema come intensità, quanto massa, avete un po'. No, mettila com'era che è proprio brutta, pessima addirittura. Mettila com'era e basta. Allora abbasso un pochettino, ho avvicinato un po' il microfono, lo sto abbassando il Mickey Game. Guarda un po' adesso, uno delle tre prova radio. Vabbè. Così è accettabile, dai. Però non aumentare di più perché comincia a trappare. No, infatti quello che volevo dire, l'importante è che non sappia, ma la modulazione è chiara, riuscite a capirla? Sì. La modulazione è già che capisce, però voglio dire, non è con la solita tornaglia, vabbè, ho capito dove sei, è tutto diverso il discorso, però non aumentare più di quello, perché la radio diventa veramente brutta. Sì, no, la parola è che si è amplificata aggiustamente, abbasso un pelustino ancora, guarda, 1, 2, 3 prove, e poi adesso faccio entrare l'amico qua vicino, vediamo con la voce sua che sicuramente è molto più, è molto meglio della mia. Guarda un po', Giulio. E così va anche meglio, vedi, basta del radio, però va anche meglio, più pulita così. Mentre il segnale come arriva rispetto al solito? Il segnale mette di dopo la portante perché devo guardare. 1, 2, 3 prova radio, attenzione. 9 più 15 qua, Robè. 9 più 10 qua. Giulio, Gianni, era te. Prova. 1, 2, 3, prova radio, canale 10. Qua arrivi 9.20, ma se 9.30, perché questo mi smittere è un po' avaro. Se 9.30 qua. Adesso ti faccio rilanciare un amico carissimo. Scommetto che sei da Riccardo. Attenzione, 10, attenzione, canale 10. Chi è avanti? Buonasera, con chi abbiamo l'onore di parlare? Ah. Con il più forte di Sassari, ciao a tutti. Ciao Modestino. Oh, Becca, la tua voce è migliore, con questo microfono è migliore di quello di Roberto. È scelito, se fosse perché tu hai voce bianca, sarà per quello. È più bella, più pulita, là. Non corposa, però più pulita. Magari alzando questa modulazione qua non fa come quella di Roberto, perché Roberto c'è un'altra timbrica. È proprio che sto dicendo, è quello che sto dicendo, che come modulazione è più bella, più pulita, proprio per tutto quello che non ci vuole, perché hanno diversa timbrica, certo. Roberto va bene con suo microfono a casa sua, quello già non c'è problema, non c'è niente da dire. Ma con questo no, non è lui, insomma, ecco. Vi siete calpestati tu e Roberto. Va bene. Ok, va bene, stavo dicendo, ho alzato un pochino il mio game, ditemi se va meglio così. Ma per te va bene. Ok, va bene, grazie. Sì, per te va bene così, per te va bene. Perfetto, tu hai la voce bianca e va benissimo per te così, come che te la amplifica, diciamo che te la invecchia un pochino. La voce, però va benissimo. Mentre invece a Roberto, forse perché sono abituato a sentirlo da casa sua col suo microfono, eccetera, è un altro discorso, però è accettabile lo stesso, e sia ben chiaro, non è che non sia accettabile, quello sì. Interessante tenere a quello livello, però senza mai aumentare, perché appena aumentato anche di poco già incominciava a trappare. Ehi. Sì, poi non è che fosse cupa, Robè, diciamo era abituata a sentirti di solito e aveva più toni bassi rispetto alla solita tua, però per Riccardo è meglio, gliela fa più mascola la modulazione. Mi accento un attimo, vado a bere, ciao. Vai e bevi. Bevi acqua però, no? Tu hai cominciato con la mano poco fa a rugiarmi, che intenzione ha questo stasera? E allora, prima si è preso l'amaro, poi gli ha detto acqua, poi non si sa se è acqua vite o acqua normale. Infatti lui ha parlato in abbreviato, acqua vite sarà secondo me. vabbè, dai, sto andando al discorso alimentatore, l'alimentatore è sicuramente migliore quello del trasformatore, non ci sono dubbi, anche se magari scalda di più probabilmente, questo sì, però è tutta un'altra funzione, dai. E tutta un'altra musica. Io stavo pensando di fargli una cassettina, la mettevo dentro, e allora ho fatto la prova, l'ho messo dentro il cassetto del comodino, l'ho messo, no? E beh, lo sai che si sente ugualmente, e allora tanto vale che non faccio cassettina, la metto dentro, naturalmente con i funghi adeguati per prendere l'aria, ma non va bene lo stesso già. Se vuoi dovete spostare dall'altra parte, dall'altra stanza. Buonasera. Ciao Claudio. Per l'inerzia, scusate, Nessi, non si sente nulla, eppure la ventola ce l'ha, ma è molto silenziosa. Avanti, Claudio. Buonasera, solo per salutarvi, dai. Io ce li ho distanti, Giulio, perché lo sai com'è il mio impianto. C'ho due alimentatori, tutti e due da 60A, uno della Proxel e uno della Diamond, che è arrivato da poco. Molto bello. No, volevo sapere, Riccardino, con quale radio stavo uscendo, perché io non lo sentivo bene. Ciao Claudio, ben ascoltato, sto uscendo con il 44 adesso. Boh, non hai niente, sembra un baracchino normale, come mai? Ah boh, non lo so. Chi c'è lì? Roberto c'è. Si vuole andare al microfono un po' più spinto, qua. Sei tutto papperato tu. Aspetta, qua abbiamo fatto le regolazioni, aspetta, non toccare niente. A uno è il coso, il mic gain, più o meno come lo tengo io, cioè vedete stiamo utilizzando un altro microfono, non è il solito mio. No, la domanda è, vorrei scusare gli altri, la domanda è questa, stai usando un 60 o stai usando un altro tipo di microfono? Ehi, sto dicendo un altro microfono, non è il 60, questo è un 80. Ok, un 80, e il processore è inserito? Ehi, possiamo provare ancora un pochettino, tu come mi stai ascoltando, con K anche tu? No, no, io K. È dentro l'armadio, io ho il baracchino, questo è l'Inuit, ma non ci sono problemi, ti ascolto bene lo stesso, c'è una bella ricezione questo. Non mi piace la modulazione. Non mi piace la modulazione, non so se gli altri sono d'accordo, ma non mi piace la modulazione. Ma spiegami un po', come la senti? Distorta, compressa? Spiega un po', voglio capire. Ma sento, non mi piace, sembra peggio di un baracchino. Ma è bassa la radio? Beh, se ci sei tu lì sicuramente non è alta. Poi se ci sono io lì, non ho capito, cosa intendi? Intendo che tu ti piace sempre la modulazione bassa. Senta, si può alzare, se vuoi posso alzare, però mi devi dire se saturo. A uno è troppo basso, devi metterlo a uno e mezzo. Dove va adesso? Vedi, già strappa. No, mi piace il microfono, ma non lo so. Non lo so cosa ne pensano gli altri, ma a me non mi piace. Vai Giulio. Dai, l'abbiamo bruciato da poco fa, sia io che Gianni e anche Marco, per cui per lui non va bene. Abbiamo detto che è migliore con la buona azione del Riccardo, però ripeto, anche per quello non è la solita voce di Riccardo, che la, diciamo che gli fa una modulazione di una persona un po' più adulta, lui essendo un ragazzino così ha la voce bianca è totalmente diversa. No, ma dall'altra volta, io adesso non sapevo nemmeno che lui stesse usando le VC80, però dall'altra volta io l'ho detto, ecco, e lo confermo, che VC80 non va bene per Roberto, almeno da quella stazione, se poi a casa sua ha un altro tipo di radio, che gli sia la dice meglio, non lo so, però per me il microfono, l'80 per Roberto non va bene, è l'ideale del 60 e basta, tutto lì ho qua. Vabbè, ma a prescindere che Roberto lì non ci fa niente, la regolazione va fatta su Riccardo, non su Roberto, quindi non lo so, vabbè. Gianni, riprendi, poi rilancia per Riccardino, voglio sentire Riccardino, poi me ne vado, dai. Ehi, no, anche io la penso come te, vuole la regolazione per fare su Riccardino, lo usa lui l'apparecchio, quindi le voci sono diverse, le timbriche e tutto. Riccardino, secondo me, come modulazione esce meglio, gli si addice di più come microfono, dai. Prova Riccardi, dai, prova a modulare. Guarda questo, che problemi c'ha invece? Fai modulare a Riccardo, a me non me ne frega niente la tua voce, sei brutto, tu no, sei brutto, fai modulare a Riccardo. Lo so che sono brutto, però se tu mi dici che troppo alta, ma se ma poi passano Riccardino le prove le fate, però se lo fa male, ma male con me va male anche con lui, è questo il discorso. No, ma tu sei tutto papperato, fai parlare a Riccardo. Ok, va bene, Claudio, sto parlando io con il più due. già sei molto meglio di lui, ma molto meglio di lui. A quanto ce l'hai il più 2? Il più 2 ce l'ho più o meno 5-6, una cosa del genere. Mettilo a 4. Ok, adesso la regolazione del microfono del più 2 è a 4. Ok, a 4. A quanto è il mic gain della radio? È 1, il mic gain della radio è 1. Mettilo a 1.5. Ok, adesso il mic gain della radio è a 1.5. Ma va, deve scarichi, è chiaro, in realtà. Ma non capisco perché hai tutte queste scariche, tutte queste... Sto uscendo a scariche. C'hai delle scariche del microfono, non pigi bene il microfono, non lo so. Tira quella leva, quando usi il più 2, non usare il pulsante, quello della... Tira su quella leva, usa il lock. Ok, va bene, adesso allora trovo con il lock, perché poi sto schiacciando tutti e forse come lo clicco noi, adesso sto usando il lock, forse va meglio. Non mi piace la radio, Ricca. Non ti offendere, ma non mi piace la radio. Va molto meglio l'altra che hai, simile a quella, col Turner più 2. Questa non mi piace la radio, non lo so, ma non riesco a capire, non lo so. Ho capito, è tutto come stanno facendo le relazioni, però... sta pure strappando. L'80 sta andando bene, non è anche quello se lo tolgo. Ma c'è solo come la sua. No, io quasi quasi non ti capisco. Non è strappato, Marco. È papirinato, che è diverso, non è strappato. Beh, forse allora è vicino al mic, è troppo vicino, cioè dovrebbe diminuire leggermente il guadagno microfonico, perché sono tornato, era andato bene. Ho detto, Ricca, al primo passaggio, quando te l'ha data Roberto, andavi bene, però sembra che tu abbia alzato parecchio, boh. Vabbè, sono tornato di nuovo all'80, se andava meglio, se adesso visto che la regolazione l'avevo aumentata per il più 2. NCS, non c'è semo, io la sento anche cupa, con questo baracchino che pure riceveva culto, Ricca. Cioè il primo passaggio era buono, adesso non so cosa è toccato, io ero andato a bere, sono rientrato. Che altro c'è? E ciao Claudio anche. No, non mi piace, non riesco a lavorarci su quella radio. Se non mi mette un 60, io sono abituato a usare quelle radio con l'MC60, non con microfoni vintage o con stronzate, perdonate il mio linguaggio, Ricca, devi mettere un MC60, io quelle radio le regolo con i microfoni sui. L'80 non va bene, l'80 non va bene per la tua modulazione, Riccardo, toglitelo dalla testa. Il Turner più 2, ancora peggio, io ti sento molto paperinato, non in distorsione ma non chiara. Ok, non chiara, quindi non so cosa dirti, ci vuole un 60 lì con l'impedenza 50 prima, puoi vedere l'impedenza 500, fare le prove così, disinserire l'amplificazione da sotto, inserirla, cioè queste sono le prove che io ho sempre fatto da 40 anni a questa parte con i K, poi così non riesco a bilanciarmi, quindi non lo so, procurati un 60 e poi ne riparliamo, per me non va bene. Ok, io vi lascio, dai, scusate l'intromissione, volevo capire perché è già da ieri che lo sento male a Riccardo, non capivo il perché, ma boh, dai, buon divertimento a tutti. Giulio, ti passo il cambio e niente, io rimango in ascolto, ciao a tutti, buona serata. Ok, ciao qua. Ma alcuni giorni fa gli si era fatta una bella regolazione, andava benissimo. Oggi non capisco come mai sta andando male. Vabbè, dai, comunque. Vabbè, dai, comunque. Fate come credete, per me non mi interessa più di tanto. Avanti Gianni. Saluta Claudio che è andato via. E rilancio tutto a Marco, quindi saluto. Ehi, mamma mia, scusate signori, non so voi, ma io sono in pantaloncini, c'ho caldo qua, è una cosa incredibile, d'altronde se metto il ventilatore anche portatile mi ammazza, cioè sono costretto a vestirmi per usare il clima, sono con la ventola a soffitto, ma Gesù, c'è le scampi liberi, dopo mi butto nella vasca. Comunque Ricca, interrogativo, hai rialzato il guadagno microfonico? Ma quello che è caldo, prima ti è bevuto la mano, poi l'acqua vita, era un grido. Addirittura l'acqua vita, era un goccino di amaro, per digerire quella bomba ecologica lì, come si chiama. vabbè. Ti ho detto vado a bere l'acqua, però non hai specificato che acqua. No, no, acqua quarcetta di Eurospin, frizzante. Ah, ecco. Non è che ho facciato l'acqua a vite. No, troppo caldo per l'acqua vite. Già, a parte che il fuoco in caldaia me l'ha messo l'amaro, che pure era freddo dal frigo. Riccardo, ci sei? Sì, ci sono Marco, sono qui, sono qui. No, dicevo, il guadagno microfonico, appena hai fatto il primo passaggio, ancora era buono, ma adesso è davvero così mio. O sei troppo vicino, tu? Però solo che siamo sempre lirica, io ti sento una volta bene e nove magari meno bene. Una volta bene, o impastato, o cupo, o strappato, non si riesce a trovare una cosa ottimale lì, boh. Allora, voi la contatore adesso, se non ascoltato, oppure faccio una prova con Riccardino. C'è fuori frequenza, sì. Come fuori frequenza? Ma che scritta? Sembra fuori frequenza, la radio non si capisce. Allora adesso abbassa un po' la potenza, ma sta uscendo con pochi watt. Come adesso? Sempre sacro, ho messo. È la modulazione. Guarda un po' adesso, 1, 2, 3, prova radio. Adesso stai migliorando. Adesso ho abbassato ancora il micchiglione, perché questa radio spinge parecchio di fronte. Guarda un po', 1, 2, 3, prova radio, adesso faccio entrare Riccardino. Abbassalo appena. Un'infinitesima, proprio un'inezia di meno, ci siamo quasi. Ok, va bene Marco, adesso sto parlando io con quello che stavo usando adesso Roberto. Come c'è perfetto? Qua va bene, conta che il suo baracchino riceve toni un po' più alti, quindi qua, ma prima era proprio, aveva ragione Claudio in quel frangente, adesso qua va bene, il Giulio? Sì, ma già detto poco fa, Riccardo va bene, a quel volume però, se non mai fa poi magari anche per lui comincia ad andare male. Ma così come adesso è ritornato come era prima, come era quando abbiamo detto poc'anzi che per la barricata andava bene, meglio invece non andava bene per Roberto, tutto lì. Va bene così, ma io già cosa ti dico Riccardo, fai come ti pare, ti piace, però io ti ho sentito bene solo col corpo a te, con quel baracchino, poi tutto l'altro radio difficilmente sono riuscito a sentirti bene come il corpo. Con quello lì già va bene veramente, ma con tutte le altre, stavo comunque, per vedere come ti piace, per me va sempre bene, avanti i danni. Sì, prova Riccardino a vedere se esci più bene adesso, l'hai abbassato appena appena. Sì, sì già, l'ho abbassato di un pezzino ancora. E così va bene, la radio è chiara. Guardate, così è chiara. Certo, non c'ha la spinta che può avere quella radio lì, ha ragione Claudio, però si sente bene adesso. Domanda, l'MC80 non ha regolazione di toni, no? No, non ne ha, è come un MVP4, non ha i toni, invece l'85 lo puoi regolare. Ehi, capito. Comunque dai, qua va bene, però non toccarlo ulteriormente, anche il passaggio precedente era ottimo. Io vi devo lasciare perché questa ventola mi sta esasperando. Era meglio quando l'ho staccata, perché tanto l'alimentatore rimane quasi freddo, diciamo, appena tiepido. Qua. Una cosa che ti entra nel cervello, guarda, sembra di essere dal dentista. Vai Gianni. Se non attaccare, gliel'attacchi ogni tanto, quando non fa gliel'attacchi e basta. Se si può staccare fai così, la lasci senza attaccare, quando stai parlando e tu quando smetti di parlare gli dai un colpo di interruttore e via. E così la prende quel momento e poi quando riattacchi lo respingi. Guarda, c'era un periodo che l'avevo scollegata, no? C'è le connettorie, no? Perché tanto questo alimentatore comunque non scalda, cioè con 4 watt di baracchino non scalda, diventa al massimo dopo tutta una sera di uso diventa temperatura corporea sul coperchio, capito? Però questo prima, adesso col caldo che sta arrivando, io non mi fido, perché se sul coperchio hai una temperatura corporea, magari poi vai a toccare qualche componente ed è rovente, che ne so io, non mi sono fidato. Ehi, va cambiata questa ventola, dai, la devo ordinare, ci potrò fare. Dai, mi assento un attimo, riprendete voi. Vai Riccardo. Beh, se si rimetti un ventilatore esterno fa meno rumore. Se no mi gli levo il coperchio, così se ci va il gatto rimane fulminato. Come facevano con le bestie, gli tornavano i cofanizi per raffreddare. Riccardo non risponde. Stavo pensando, Gianni, ti a dire se si fa fare lo stazione per adattare il MDB+5, che non ce l'ha il MDB+5. Sono convinto che sia meglio dell'80, Riccardo, con quella radio lì. Sì, probabilmente sì. Deve essere un po' demoralizzato, va, per quello che gli hanno detto, sia un po' demoralizzato, io lo capisco la forza. Gianni, Giulio. Sì, dimmi. Sì, poi avete capito anche perché io il K l'avevo fatto fuori, cioè devi trovare la regolazione giusta a caldo, poi devi parlare a una certa distanza, poi devi tenere lo stesso tono di voce perché se parli forte strappa, poi quando era freddo non andava bene, bisognava che entrasse in temperatura, ha detto ma non ti nandi, basta, meglio il baracchino 1000 volte, cioè accendi, parli, non ti fai se paranoia, parli forte e strappa, parli vicino e strappa, lasciamo perdere. Ti ho detto, rimpiango solo lo Smith di quell'apparato. Sì, quello sì, col baracchino magari esce più chiaro, ma ce ne sono anche persone che con K escono molto male, ad esempio io sento lo stesso Marino con K, esce malissimo, non capisco per quale motivo devo uscire così. Boh, non lo so, infatti glielo ho detto già un paio di volte, aveva una radio bruttissima, forse non lo aveva bene, o forse non lo so, non è adatta alla sua timbrica, io questo non lo so. So solo che esce malissimo, o forse perché siamo troppo vicini, io e lui siamo vicini, non te lo so dire, so solo che esce malissimo, anche ieri lo stavo ascoltando, l'altro giorno l'ho registrato e l'ho mandato, proprio per fargli sentire come sta uscendo, e mamma mia quanto potesse stare tenendo male. E invece c'è un basso, cosa vuoi ti dica, c'è il basso, però io, boh, vabbè, comunque, lasciamo perdere, va, tanto è vita la ragione. Tanto meno, regoli adesso, dopo 10 minuti è differente la questione. È già successo, anche l'altro giorno, quando gli aveva regolato una radio, non